want me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me. Soundcheck. Il suono della musica di JJ Telesforo. Pronti per il soundcheck di Radio 24, buonasera a tutti voi da JJ Telesforo, buonasera al nostro Francesco Tromba, felice oggi di incontrare uno dei suoi idoli della discografia nazionale e internazionale. Ti vedo, non hai messo la maglietta con il suo volto, ma una bella maglietta proprio per celebrarlo con Miles Davis dannata. Buongiorno, anzi buonasera Francesco, come stai? Tutto bene, non sono riuscito a trovare una maglietta con i dischi o comunque col volto di Nicola Conte perché non credo siano ancora siano in produzione. Allora glielo chiediamo direttamente, hai svelato subito chi sarà l'ospite di questa puntata, di questo sabato qui su Radio 24. Sono felice di presentare agli appassionati di musica della nostra radio preferita un mio amico, insomma ci conosciamo sul serio forse da più di 30 anni, mi ricordo di Nicola Conte quando ci raggiungeva a Roma con una valigia di pelle molto chic come sempre, carica di vinile dannata, e era l'unico DJ o disc jockey, forse disc jockey mi piace di più, allora, che faceva DJ set utilizzando esclusivamente materiale jazz degli anni 50-60 con una passione in particolare che non ha perso poi nelle sue produzioni discografiche, ovvero il Latin jazz. Ecco, buonasera a Nicola Conte, benvenuto, sono felicissimo, benvenuto al soundcheck Nicola. Ciao JJ, sono molto felice anch'io, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio 24, ciao Francesco. Ecco, allora, ma ti ricordi, no? Noi ci siamo proprio conosciuti in quell'occasione, tu venivi a Roma nei piccoli club dove si faceva musica e c'erano tutta una serie di disc jockey e soprattutto di musicisti che venivano ad apprezzare le tue selezioni che spaziavano, che ne so, da Art Blakey e Jazz Messengers, Horace Silver e tutto quello che ha formato il tuo background musicale. Ma la tua musica da dove arriva? A casa tua chi ascoltava musica? Chi comprava i dischi? Nessuno. Cioè, come sei arrivato al jazz, scusami? Sono arrivato attraverso letture, attraverso visite nei negozi di dischi, letture che non avevano molto a che fare con la musica in maniera diretta, tipo i poeti della Beat Generation, tutta un'altra serie di cose. E quindi a un certo punto si è creato un contesto nella mia testa che mi ha portato direttamente verso il jazz. Allora, la prima missione fu cominciare ad andare a capire quali dischi comprare, e mi ricordo che andai in un negozio che ovviamente che non esiste più a Bari. Allora, nel negozio c'era il settore dedicato al jazz e c'erano diverse vasche di dischi. Una in particolare colpì la mia attenzione, c'erano tutte le ristampe della Blue Note e la maggior parte dei nomi mi erano assolutamente sconosciuti. Però le copertine erano fantastiche. Allora, la prima cosa fu di scegliere i dischi in base alle copertine. I primi due che ho preso in assoluto della Blue Note sono stati Art Blakey Jazz Messengers, Morning, e Horace Silver, Six Pieces of Silver. Assolutamente, un po' le cose sono andate così anche per me, io anzi sono stato agevolato perché papà, tu lo sai benissimo, un grande appassionato di jazz, per cui non andavo neanche nei negozi di dischi, ma aprivo direttamente il mobile presente a casa a Foggia, perché siamo pugliesi tutte e due, e ho iniziato così a fare scorpacciate di grandissima musica. Insomma, il tempo è passato da semplice appassionato di musica, poi ti sei avvicinato da professionista, non solo come disc jockey, come musicista, ma soprattutto oggi sei un producer di fama internazionale. È bello dirlo questo o no? Ti imbarazza? No, sei molto gentile, Gigi, ti ringrazio. Beh, ma io lo penso sul serio, non lo dico perché siamo pugliesi, lo dico perché lo penso ed è così, insomma ci sono gli attestati per poterlo dire. Anzi, facciamo una cosa, guarda, dimostriamo subito chi è Nicola Conte come producer. Nuovo album per lui, ed è per questo che qui al Soundcheck di Radio 24 si intitola Free Souls. Lo abbiamo già presentato qui al Soundcheck, una serie di musicisti che presenteremo, una serie di guest star, è la prima che partecipa a questo nuovo album, si chiama Marvin Parks, il brano è Shades of Joy, qui al soundcheck di Radio 24, Nicola Conte. jungle sound tipico di Nicola Conte qui al Soundcheck di Radio 24. Nostro ospite la voce di Marvin Parks, protagonista di Shades of Joy, che troverete in Free Souls, le anime libere di Nicola Conte, una nuova avventura discografica. Praticamente si è arrivato quasi al 10º, 11º album come solista. Sì, contando anche gli album dei remix forse, e alcune delle produzioni che in realtà poi sono stati e sono degli album miei, come quello che feci con Rosalia. Con Rosalia De Souza, sì. O la bellissima esperienza insieme a Chiara, recente. Ecco, Chiara Civello, abbiamo anche parlato del disco che hai prodotto a Chiara e ascolteremo qualcosa magari più avanti. Cerchiamo di continuare questo percorso sulla tua attività. Insomma, hai comprato i primi dischi in questo negozio di Bari e poi che cosa è successo? Hai pensato anche di farli ascoltare agli altri amici baresi, in un momento dove la musica certamente aveva un po' dimenticato il jazz e si suonavano già cose dance un po' raccapriccianti per noi. Alquanto raccapriccianti, ed è stato proprio questo che ha spinto me e tutta un'altra cerchia di miei amici, alcuni dei quali tu hai conosciuto in quelle prime visite a Roma, una manica di pazzi, assolutamente bohemien, e quindi non avendo molto tempo a disposizione, perché universitari molto sui generis, dovevamo fare qualcosa, perché dovunque andavi la sera ascoltavi della musica orribile, quindi l'idea era quella di suonare il jazz, il soul, il funk, il rare groove nei club. Quello stava accadendo a livello internazionale. A Londra c'era Giles Peterson, era del momento insomma della sua prima fase ascendente, questa scena stava cominciando a prendere piede un po' dappertutto, Germania, Giappone, eccetera, e noi la cominciamo a Bari. Però questo già arrivò qualche anno dopo la scoperta di Art Blakey e di Ora Silver. Cioè, c'è sempre un tempo in cui la musica deve sedimentarsi dentro di te e deve diventare un'unica cosa, altrimenti non puoi essere credibile. Cioè, non è perché ti compri 10 dischi che a un certo punto diventi DJ jazz o ti puoi fare una cultura in 5 secondi. Ci vuole il tempo per cominciare ad avere una conoscenza sufficiente per capire quale può essere una direzione originale. Ecco, e la tua infatti fu una direzione originale, perché sei stato, io ricordo, il primo o uno dei pochi disc jockey italiani a proporre quel tipo di suono, cioè una ricerca davvero appassionata, una selezione molto curata, ed era molto divertente ascoltare proprio Art Blakey e Jazz Messengers, Ora Silver, oppure i primi album di Herbie Hancock giovanissimo, che tu missavi come i disc jockey sanno fare, tu parlavi delle copertine elegantissime della Blue Note. La cosa bella era vedere questo giovane appassionato disc jockey di musica vestito come le copertine della Blue Note, in giacca e cravatta. Francesco Tromba forse neanche lo puoi immaginare, un disc jockey dei primi anni 80 in giacca e cravatta fare musica nei club. Allora, le collaborazioni importanti che tu hai avuto c'è quella anche con Gregory Porter. Anzi, se abbiamo conosciuto Gregory Porter è stato diversi anni fa, proprio perché ha partecipato alle tue produzioni. Io ti faccio ascoltare Gregory Porter, qui protagonista di un progetto chiamato Zbonix, che è il batterista polistrumentista Zach Nager. Il brano si intitola Issues of Life qui al Soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Nicola Conte, protagonista del Soundcheck di Radio 24 con il nuovo album intitolato Free Souls, e ho fatto un piccolo errore e lo voglio ammettere. Praticamente ti ho fatto invecchiare di 10 anni musicalmente, perché tutto quello che abbiamo raccontato, i club, i DJ set di Nicola Conte vestito come Ora Silver dai dischi della Blue Note, è dei primi anni 90, non dei primi anni 80. Io sono arrivato a Roma nei primi anni 80 e ho vissuto un altro momento musicale molto interessante, ma che abbiamo già raccontato. Allora, parlavamo di Gregory Porter, che oggi non ascolteremo, tratto dalle tue produzioni, perché vorrei dare spazio a Free Souls, ma come l'hai conosciuto Gregory Porter? L'ho conosciuto telefonandogli. Perché, perché così si fa, cioè quando ti piace una voce che fai? Chiami la subito. La chiami, non nemmeno scrivi il messaggio, io parto con il telefono, perché l'impatto importante è proprio quello della prima volta nella quale entri in contatto con una persona, anche solo al telefono, tu senti immediatamente un vibe e se è quello giusto. Nei tuoi dischi noi scopriamo delle voci, poi sono anche dei talenti, dei bravissimi cantanti, però più o meno semi sconosciuti. Come li vai a ricercare? Dove li ascolti prima di convocarli? Nel caso, per esempio, del brano che hai suonato un attimo fa, Shades of Joy, Marvin Parks, questa canzone in origine aveva la traccia vocale era proprio di Gregory Porter, soltanto che era rimasto incompleto, nel senso che aveva inciso soltanto il primo chorus. E poi ci eravamo fermati perché c'erano altre cose da fare. Ma il brano a me sembrava molto bello. Quando l'ho ripreso per completarlo per questo disco, ovviamente ho parlato con Gregory, gli ho detto: guarda, qui c'è la voce, io posso fare qualche aggiustamento, eccetera, ma dimmi tu che cosa ne pensi, perché abbiamo soltanto il primo chorus. Ho detto: no, il pezzo è molto bello, però magari dovrei registrarla. Non c'è stato il tempo di farlo, e io avevo già pronto, diciamo, l'asso nella manica. Che era il piano B pronto sempre. Il piano B era questo cantante che avevo conosciuto a New York a ottobre. Che mi aveva scritto, che gli piaceva moltissimo, dove aveva sentito Gregory Porter, Jesse James, eccetera. E ho detto: ok, allora sai cosa c'è? Che tra 2 o 3 mesi probabilmente tu devi venire a registrare a Bari. E così è stato. Eh sì, perché le produzioni, per quanto abbiano poi il respiro internazionale, sono realizzate a Bari, dove c'è un bellissimo studio di registrazione e dove tu riunisci ormai un team consolidato da tempo con i musicisti, e li presenteremo. Vorrei che invece mi presentassi questo Soul Revelation, sempre presente in Free Souls con Tasha's World. Lei, Natasha, viene da Rotterdam, è olandese. In Olanda c'è una scena soul molto forte, c'è sempre stata, e ci sono 2 o 3 cantanti famose, lei è una di queste 3, e per esempio lei l'ho incontrata in Montenegro in un festival. Anche lì l'impatto proprio personale è stato importante. Sai, quando stai sperimentando delle cose, hai anche bisogno, come tu sei bene in studio, di avere le persone giuste, non solo per la loro bravura, ma anche proprio per quello che la loro personalità, per quello che le loro sono le loro vibrazioni. E lei è stata molto d'aiuto e è stata una bella esperienza. Ovviamente questo è un brano non semplice da cantare, perché il tema è molto per aria. È articolato, e allora lo ascoltiamo subito. Nicola Conte, Tasha's World, il brano si intitola Soul Revelation. There is no sound tipico di Nicola Conte, che è diventato un must non solo in Italia ma anche a livello internazionale, recuperato poi anche da altri artisti. Non voglio fare i nomi, però insomma questa tua passione per il Latin Jazz, questo tipo di ritmica, questo tipico arrangiamento ha un po' la tua firma, e lo abbiamo risentito in varie situazioni musicali italiane e non. Com'è? Una soddisfazione? Beh, insomma, sì, in parte sì, ma anche un motivo per passare avanti e cambiare, cioè spostare l'asticella un po'. Certo, cercare nuovi orizzonti e nuove possibilità sonore, perché la musica è un po' come la matematica, ovvero infinita. Vedo il nostro Francesco Tromba, che ha ascoltato con attenzione le nostre disquisizioni, e forse è pronto per qualche quesito, no? Che cosa vuoi chiedere a Nicola Conte? Sì, la prima domanda che volevo fargli è, diciamo, anche in questo ultimo disco il proprio esteticamente il disco ha la forma di un vinile. Gli volevo chiedere se è una questione semplicemente di nostalgia per il vinile o anche proprio una questione di qualità del supporto. Innanzitutto questo disco esce anche in vinile e questo è una condizione sine qua non per me per fare uscire un disco. Beh, perché sei sempre un disc jockey, no? E tu da disc jockey vero utilizzi il vinile. Ma anche perché la musica incisa su vinile ha un suono infinitamente migliore di quella invece digitale. Provare per credere. Beh, certo, bisogna avere l'impianto giusto e allora lì senti le basse, senti una certa profondità, soprattutto con gli strumenti acustici, no? Quindi ascoltare jazz o musica classica su vinile e con strumenti analogici fa sempre un certo effetto. Altro? Sei soddisfatto? Sì, ho un'altra domanda. Prego. Diciamo, tu sei più famoso a livello internazionale rispetto che in Italia, soprattutto in Giappone, so che hai venduto tantissimi dischi. Ti volevo chiedere come mai non ti è mai venuto, cioè se ti è mai venuto in mente di trasferirti all'estero e se ti penti di essere rimasto in Italia. Beh, in Giappone gli piacerebbe perché è anche un grande appassionato di sushi, questo lo so. Ma venendo da Bari sono appassionato di pesce crudo, diciamo, non è molto diverso. Ho pensato diverse volte, ma non per una questione di essere più o meno famoso in un luogo piuttosto che in un altro. Ci ho pensato perché l'Italia negli ultimi tempi non è che sia questo paradiso per la cultura, per l'arte in genere, e quindi se ti muovi un po' fuori dagli schemi, non fai parte del mainstream, non scendi a certi compromessi, in questo momento, diciamo, l'Italia non è il luogo ideale per fare musica. Allora, invece, un posto ideale per fare musica è sempre New York, e da New York viene questa ragazza che è una delle mie preferite, proprio perché ha il piacere di coinvolgere nelle sue produzioni discografiche e nei suoi concerti alcuni fra i migliori musicisti americani contemporanei. Questa ragazza si chiama Gretchen Parlato, il brano è How We Love, qui al soundcheck dall'album Lost and Found. Whisper from a prince upon a summer day, and I cannot say where all the time goes, followed by the shadows of our yesterdays, but they've gone away and leave us all to find out who we are inside our minds. And you decide it's time to change. Soundcheck, il suono della musica. Beh, questo è un capolavoro della discografia jazz, il grande maestro della batteria Buddy Rich, che coinvolge sua figlia Katie, allora credo 12enne, e lo annuncia anche nella presentazione, come interprete di The Beat Goes On, il celebre brano scritto da Sonny Bono in questa chiave da big band, super swing e anche super beat. La cosa bella che Buddy Rich, quando presenta Katie all'inizio, per giustificare l'emozione della ragazza, al pubblico annuncia: questa è mia figlia Katie, ha 12 anni ed è già ubriaca. Storie tipiche del jazz, storie che conosce molto bene Nicola Conte, che oltre a essere un appassionato è un musicofilo, nel senso che approfondisce la sua cultura leggendo molto anche sui dischi che poi vengono ascoltati. Questo è quello che facevo anch'io. Quando compravo un disco poi cercavo di ottenere tutte le informazioni possibili e immaginabili, andando a tradurre tutti i dati di copertina cosa oggi più facile perché c'è internet che ci agevola, però io con nostalgia ricordo un po' quel periodo, perché quando compravamo i dischi li spolpavamo, cioè alla fine il disco bisognava comprarne un altro perché il vinile era completamente mangiato dalla testina. Oggi invece c'è una proposta musicale infinita e diventa difficilissimo ascoltare tutto e seguire tutto quello che viene pubblicato. Tu come fai per tenerti aggiornato? Ah, io praticamente quasi ogni giorno faccio ricerche. I dischi nuovi contemporanei li compro per esempio da un negozio inglese sul web, e io seguo anche molto la musica elettronica. Cioè, li compri che te li fai spedire, sì. I CD, il vinile, ma fai anche download? No. Non compro CD, non faccio download, mi faccio mandare solo i dischi in vinile. Hai capito? Vorrei andare un giorno a casa di Nicola. Devo venire un giorno a casa tua a Bari a vedere un po', a spulciare un po' di vinile. Noi qui invece abbiamo una discografia prettamente su CD, però a casa di papà a Foggia invece c'è del vinile che potrebbe interessarti. Allora, noi siamo più o meno alla fine della prima parte, siamo quasi vicini all'informazione, al GR di Radio 24, ma abbiamo ancora un po' di tempo per la musica. Allora direi, Nicola, di passare Free Souls, che è il brano che poi dà il titolo a questa ultima fatica discografica. Che cosa ci puoi dire di Free Souls e di Bridget Amofa? Bridget è un'altra scoperta. Lei è di Londra ma di origine del Ghana, grande presenza sul palco, abbastanza matta ma molto simpatica per questo. Poi voglio dire, con lei, come tu ben sai, con le cantanti sono gioie e dolori. E, basta non innamorarsi, però. Basta non innamorarsi, ma diciamo lì già è in zona pericolosa. A volte succede. Va bene, allora facciamo partire la musica, e mentre il disco procede e fa il suo percorso, ci facciamo raccontare, caro Francesco, da Nicola Conte qualcosa di calabrese, successo sicuramente con Bridget. Non lo so, però adesso ce lo dirai. Il brano è Free Souls. Soundcheck, il suono della musica. E dopo l'informazione di Radio 24, di nuovo in contatto con il Soundcheck, la prova del suono, con ospite Nicola Conte per presentare Free Souls, ultima fatica discografica pubblicata dalla Schema Records, che ormai da tanti anni lavora e collabora con Nicola Conte. Cioè, Schema, che cos'è? Anche un po' la tua etichetta. Sì, certo, è anche un po' tanto la mia etichetta, ma per molti motivi con loro abbiamo fatto un lungo percorso. È stata l'etichetta con cui è uscito il primo disco, e se non, il nome mi sembra che sia stato proprio io a pensarlo. E hai avuto anche la possibilità di poter firmare e pubblicare qualcosa con le multinazionali, però da musicista appassionato di jazz hai sempre diciamo un'indole da indipendente. E mi auguro di mantenerla per sempre. Per esempio, questo disco io volevo farlo uscire velocemente, perché è un disco che raccoglie materiale inedito che poi ho completato, e lavorare con una etichetta indipendente ti permette di essere più agile. Lavorare con una major, come ben sai, molto spesso è un po' più macchinoso. Poi dipende anche la qualità delle collaborazioni, cioè chi sono i tuoi interlocutori, e questo fa una grossissima differenza. Però hai a che fare, lavori con le multinazionali, per esempio adesso hai prodotto il disco di Chiara Civello, che ha una distribuzione importante. Sì, in questo caso diciamo se l'è vista Chiara nei rapporti con la Sony, ma io so che comunque c'è una bella atmosfera. Io mi sono occupato solo della musica e di dare tutto l'aspetto artistico. Sì. che è poi quello che a me interessa di più. E questo ti dà anche un maggiore senso di libertà, anche il fatto di osare un po' di più. Alla fine la mia responsabilità era quella di arrivare con un sound, di dare un sound all'idea che Chiara aveva e di costruire intorno a lei, alla sua voce, uno scenario sonoro. Chiara Civello, che è una giramondo da tanti anni, ha vissuto a New York da un po' di tempo, frequenta assiduamente il Brasile. Come è arrivata a Bari? Con una telefonata. Esatto, la prima volta è arrivata credo nel 2006, era uscito il suo primo album per la Verve e prima ancora era uscito quello mio per la Blue Note, Other Directions. Io avevo cominciato a fare le session per l'album successivo e mi era piaciuto molto la sua maniera di cantare, il timbro della sua voce nel suo primo album. Ho detto guarda, io ti vorrei in un paio di brani in questo disco. Lei è venuta a Bari e da lì è nata una grande amicizia. In inglese si dice kindred spirits, anime gemelle, cioè voglio dire molta affinità con Chiara, che è una donna squisita. Sì, una bravissima ragazza e soprattutto una grande artista, bellissima voce e una musicista, poi, che è la cosa più importante. Cioè, i cantanti musicisti hanno qualcosa in più, danno qualcosa in più. Io penso che Chiara abbia decisamente qualcosa in più e probabilmente in questo momento lei è forse un'altra, ma soprattutto lei credo che sia la cantante italiana che ha il maggior potenziale a livello internazionale. Ci vorranno anche dei dischi in inglese, perché quello serve nel momento in cui ti vuoi, come dire, vuoi conquistare tutti i mercati del mondo. Io penso che lei abbia assolutamente questo alla sua portata e questo però è stata una grande esperienza artistica, perché io non mi ero mai misurato prima di questo disco con un repertorio italiano, con canzoni, alcune di queste sono canzoni che io amo e che ho sempre amato, altre le abbiamo, come dire, scelte all'ultimo momento, nella fase finale poi della preparazione del disco, anche per poi non fare una cosa troppo legata per esempio alla canzone italiana degli anni 60, un po' un raggio ampio, e la scommessa, come ti ho detto, era quella di trovare una via originale per fare dei brani che sono conosciuti da tutti. E per supportare il talento di Chiara Civello, che coinvolge in questa produzione diretta da Nicola Conte e intitolata Canzoni alcuni grandi nomi della scena internazionale, da Gilberto Gil, Chico Buarque, G. Hollanda, la bravissima e bellissima Esperanza Spalding, la sua amica Ana Carolina direttamente dal Brasile, e insomma Chiara Civello torna al Soundcheck di Radio 24 insieme a Chico Buarque e G. Hollanda in Io che amo solo te, tratto dal songbook del formidabile Sergio Endrigo. C'è gente che ha avuto mille cose, tutto il bene, tutto il male del mondo. Io solo te. Soundcheck. Il suono della musica. e Joshua Redman è uno dei miei musicisti preferiti, un sax tenore, suona anche benissimo il soprano qui in Stop This Train, brano che troverete nell'album Walking Shadows, al quale ha collaborato anche il suo amico Brad Meldown, non solo al pianoforte ma anche con gli arrangiamenti, brano tratto dal repertorio del songwriter più rock and roll John Mayer, ma anche lui un artista molto richiesto e amato dai musicisti di jazz. Siete in contatto con il Soundcheck, nostro ospite, lo sapete oramai, è Nicola Conte per presentare Free Souls, ultima fatica discografica per Schema Music. Nicola collabora ormai da tempo con un team di musicisti affiatati e se spesso sceglie guest star internazionali fra i vocalist, i musicisti di solito sono italiani e sono fra i migliori musicisti italiani. Poi ogni tanto c'è qualche incursione di ottimi sideman e sessionman come Till Bronner e altri, per esempio. Ma parlami del team di lavoro. Oggi il team di lavoro è metà italiano e metà internazionale. Per esempio ci sono tre batteristi che si alternano, uno è finlandese, si chiama Teppo Makinen, è il batterista dei Five Corners Quintet, e poi ce ne sono due italiani, uno è di Roma, si chiama Marco Valeri, invece uno è di Lecce, si chiama Dario Congedo, quindi panchina lunga per quanto riguarda la batteria. Invece oggi il bassista della band è un ragazzo di Lecce fantastico che si chiama Luca Alemanno. Bravissimo, grande talento. Grande talento, e con lui per esempio una delle novità è che di solito c'era soltanto il contrabbasso, adesso c'è anche il Fender Bass elettrico che serve per dare alla musica un taglio più soul, più funk. Allora, Francesco, sei operativo? Sì. Stai seguendo con attenzione? Sì, volevo fare un'altra domanda. Prego. Allora, tu diciamo hai un ruolo abbastanza istrionico all'interno della musica, sei DJ, producer, oltre che musicista. In quale ruolo preferisci, cioè ti muovi meglio? Questa è una domanda che mi fanno praticamente quasi ogni volta e la mia risposta è sempre la stessa. Quindi non sei stato originale. Nel senso, io non posso farmi a pezzi, cioè non è che il mio lato sinistro è DJ, il mio lato destro è musicista, la testa è un'altra cosa. Io in realtà sono tutte queste cose insieme e siccome il mio approccio non è poi così sempre razionale, anzi mi auguro che sia il più irrazionale possibile per non limitare la fantasia e l'immaginazione, non so dirti, nel senso, quando occorre, quando si registra un disco, a un certo punto io sono concentrato a sentire tutto il sound e tutto quello che sta avvenendo, magari in quel momento sono un po' più produttore, però poi quando varco il vetro della sala di estrazione ed entro dalla parte dove si registra divento musicista, oppure quando è tutto quanto finito e magari voglio cambiare un beat, una cosa, divento DJ. Però tutto questo avviene nel giro di, che ne so, 48 ore. La forza istrionica, potremmo dire, di Nicola Conte la ritroviamo allora anche in Free Souls, il nuovo album, dove è presente una composizione di Ahmad Jamal fra i brani originali, e il brano si intitola Ahmad's Blues e qui c'è la partecipazione di un'altra bravissima vocalist, Melanie Charles. Nicola Conte, Melanie Charles, Ahmad's Blues al Soundcheck di Radio 24. The strangest kind of changes, trying to find myself a way to pay my dues. And would you believe it, I'm so urban, my suburban friends don't know my bag of blues. Soundcheck, il suono della musica. Si parla di musica e si ascolta musica in compagnia di Nicola Conte al Soundcheck di Radio 24, proprio per presentare questa nuova pubblicazione intitolata Free Souls. Abbiamo anche parlato di canzoni, l'album che ha come protagonista la bravissima Chiara Cibello, anche questo un album prodotto da Nicola Conte, che quindi trascorre gran parte delle sue giornate in studio di registrazione lì a Bari, non hai mai pensato di girare o di cambiare, di spostare la location, di muoverti? Sì, Francesco ti ha chiesto del Giappone, però non sei attratto da New York, da Londra come altri musicisti? Ti piace restare a casa tua? Forse in un futuro prossimo farò qualche esperimento. Per esempio, New York per me è più interessante di Londra come scena. Esatto. Il fatto è che quando tu costruisci, è come la questione dello studio di Rudy Van Gelder, quando tu che era un noto ingegnere del suono, quello che ha fatto il suono ai dischi di jazz più importanti negli anni 50, 60 e via dicendo, ma lui aveva costruito lo studio in base alle sue idee, e quindi quello studio era in grado di garantire un certo tipo di suono. Il primo studio ce l'aveva a casa, cioè la batteria, sì, la registrava in cucina, e poi c'era quello a Englewood Cliff dove hanno inciso tutti quanti col tren. Lo studio diventa uno strumento alla pari, diciamo, di uno strumento musicale, perché in base a come posizioni i microfoni, poi lo studio dove io lavoro a Bari ha per esempio un ingegnere del suono fantastico che si chiama Tommy Cavalieri, e anche la simbiosi ormai con lui è un'altra cosa che una volta che tu la acquisti diventa un valore assoluto. E poi per me è molto importante l'analogico, quindi se io dovessi andare in un altro studio, l'altro studio dovrebbe essere equipaggiato con i registratori a bobine, con tutta una serie di compressori analogici. Ma quindi tu che fai? Registri in analogico o registri sul in analogico sul supporto digitale? Nel senso, registri ancora sul 24 piste, quello di un tempo, o utilizzi macchine analogiche ma registri, che ne so, su Pro Tools o altri software? Entrambe le cose, perché se non registri su un nastro, o se a un certo punto la musica non viene trasferita su un nastro, tu non avrai mai il suono veramente analogico, perché è soltanto il nastro riesce, come dire, a espandere il suono, e quello è. Molti usano un banco analogico, per esempio, con tutta una serie di outboard, e poi soltanto il digitale. In quel caso è una forma un po' ibrida di suono analogico. Il digitale serve nel momento in cui tu vuoi velocemente fare degli editing, qualcosa, è molto più handy, come dicono gli inglesi, è molto più semplice. Sì, ma tu personalmente sei pratico di computer, perché io per esempio quando scrivo, quando faccio musica, e per fare un provino immediato utilizzo il software tipico della Apple, GarageBand, perché non mi ci metto proprio, non voglio neanche stare lì a imparare. Tu invece sei pratico di registrazioni digitali? Insomma, dopo tanti anni un po' me la cavo, però non ci perdo tanto tempo. Quando invece, come sto facendo nell'ultimo paio d'anni, sperimento su un versante molto più elettronico, è chiaro che tu devi comunque sapere che cosa succede, ma molto spesso questo è anche un limite, nel senso che se hai un buon programmatore tu ti puoi concentrare di più su alcuni aspetti. Ed è quello che faccio io. Sì, e le cose vanno avanti, e infatti le cose sono andate avanti anche per te. Vogliamo ascoltare Ode to Billy Joe. Chi è Billy Joe? Che non è Billy Joel. Questo è una canzone, fu un hit molto grande in America, portato al successo da una cantante che si chiama Bobby Gentry, ed è praticamente una storia molto triste di questo Billy Joe che era un bambino. È una fotografia, diciamo, dell'America, di quello che all'epoca era la scena folk rock americana, e poi è stato un brano che è stato suonato da tutti, e quindi per me rappresentava un po' un tocco psichedelico rispetto a una sorta di blues soul psichedelico. Years come and gone since we heard the news about Billy Joe. Brother married Becky Thompson, they bought a store in Tupelo. E ora passiamo a uno dei nostri musicisti preferiti. Abbiamo tutte e due la passione per questo sassofonista che ha fatto la storia del jazz, un musicista assolutamente con la mentalità bebop, ma proiettato nel futuro nella soul music e nel funk. E vi stiamo parlando del sassofonista Julian Conobal Adderley, che più volte te hai suonato anche nei DJ set, caro Nicola. Più volte. E tra l'altro è un po' uno degli artisti jazz più campionati e utilizzati dai disc jockey, un po' come James Brown. Le ritmiche di James Brown dagli artisti pop sono state rubacchiate a destra e a sinistra. La stessa cosa è successa per le produzioni di Julian Conobal Adderley, soprattutto le produzioni dal vivo, tipo Country Preacher, dove c'è Walk Tall con la presentazione di Reverendo Jesse Jackson. I disc jockey ci sono andati a nozze con questo tipo di sound. Sì, perché Conobal Adderley e il suo gruppo, il suo quintetto, è stato uno di quegli esempi di quando il jazz era una musica che aveva una dimensione quasi pop, senza snaturare le sue caratteristiche. In più, lui, che probabilmente è stato uno dei più grandi alto sassofonisti della storia del jazz, straordinario musicista, era anche un uomo molto attento a quello che accadeva intorno a lui, sì, alle tematiche sociali, non solo dal punto di vista musicale. E questo è una componente che per me è molto importante. Cioè, a un certo punto un musicista non può allontanarsi da tutto e non essere anche anche dal pubblico. E tra l'altro, fra i tanti meriti di Julian Conobal Adderley c'è anche quello di aver scoperto Joe Zawinul, che lo prese ragazzino nella sua band, e dandogli anche la possibilità di poter suonare le sue composizioni originali. E fra queste c'è proprio la bellissima Mercy Mercy Mercy, brano scritto da Joe Zawinul proprio nel periodo in cui militava nel quintetto di Conobal Adderley. Questa è una registrazione del 1966 qui al Soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. José James, It's All Over Your Body, dall'ultima fatica discografica di questo vocalist americano, ma che un po' l'America l'ha trovata in Inghilterra, militando nelle produzioni di Giles Peterson, ma anche collaborando molto spesso con Nicola Conte. E infatti ci salutiamo con Nicola Conte proprio proponendovi un brano tratto da Free Souls con José James protagonista. Il brano si intitola Goddess of the Sea. Grazie Nicola per essere stato con noi, ti auguro di continuare a fare bellissima musica, produzioni, successi, di andare in Giappone, di continuare a mangiare sushi e pesce crudo a Bari, e prima o poi, quando tornerò a Bari, verrò a trovarti per fare una scorpacciata di vinile speciale. Quando vuoi. Allora, grazie a Nicola Conte, grazie a Francesco Tromba. Avevi un'ultima domanda? Sì, forse, se posso, se ci abbiamo. Vai. Cosa c'è di nuovo nel jazz secondo te? Cosa porta a creare sempre nuove produzioni nel jazz? Che domanda. La testa dei musicisti di jazz. Rispondo io, perché dobbiamo andare alla musica e dobbiamo salutarci. Ti va bene questa risposta? Posso aggiungere qualcosa? Certo. Secondo me quello che di più interessante sta accadendo nella scena jazz mondiale sta accadendo a New York in questo momento. C'è questa corrente che si BAM, Black American Music. Ebbene, seguiamo BAM. Invece adesso ci salutiamo con Nicola Conte, José James, Goddess of the Sea. A tutti voi buona serata e buona musica. Noi ci risentiamo domani a partire dalle 15:30 per il soundcheck di Radio 24. The time, sunrise at dawn of a new day. The sounds of nature fill the air. The world awakes, eyes softly.